Ma che non ci rientra. Non riesci a mettermi poco. Perché? Perché c'è grosso. No, ecco, mentre l'altro è la normale. C'è fine. Questo sicuramente era molto umido. Tutto in acqua e. Cookie del. La migliore è cookie del. Io faccio qui, ok? Dove è stato trovato? In mezzo al torrente. Accanto alle cassette di birra che i ragazzi avevano messo il fresco ieri sera. Già, ma non c'era ancora il morto. Non c'era ancora il morto. Ci ha fatto una figura di me. Sì, America Freude. È un campeggio a circa 2 km da qui. Reuter era il proprietario. Dottor Beckerman. Sì. Durante la sua visita di poco fa, lei ha studiato completamente il corpo del defunto. No, signora, ma chiaramente voi ispezionate il torace. Crede che mi sia sfuggita una coltellata al petto o una pallottola nella schiena? Vabbè, io questa non l'ho vista. Ma non è certo la causa del decesso. Auguro anche a voi una buona giornata. Naturalmente del 50 come PTT Però con l'MB4 collegato. Sì, ok. Andrà bene meglio. Vabbè, microfoni non ne ho altri da... Allora, ho provato l'MB4, quello da studio, il 50, non ha jazz. Io ho un Turner più 3, un MC60 e quell'altro per l'ICOM. E l'MB4 che sto usando adesso. Che va. No, già vabbè, questo è l'MB4 che ho modificato. Guarda, adesso non so se lo fa la differenza, aspetta. L'avevo messo un tastino, guarda, così senza la modifica. Ok, però deve essere non risponde perché è collegato al mixer. E così con la modifica. C'è un tastino dietro che gli avevo messo in questo microfono, perché c'è un condensatore all'interno collegato. E gli dà più potenza, gli dà, capito? Sì, K. Anda bene meda. Ma oltre a 450, cosa stavi usando stamattina? Ne avevi un altro apparato? 430, quello che sto usando adesso. Ah, c'hai il 430 e poi il 450, diciamo lui. L'FT però, non il Kenwood, l'FT 450. Sì, ho capito. Il 430 è quello della Kenwood, il 450 è Yaesu. Ma siccome c'è anche il 450 della Kenwood, capito, il TS450, no, pensavo ti confondessi, aspetta ti mando la foto. Non lo conosco già il 450, te l'ho anche detto stamattina, non avevo confuso, il 450 Yaesu lo conosco e va molto bene come apparato. Ok, adesso sono con 60. Sì, va molto bene. Quant'è la ventola della radio? Va molto bene come radio. Caspita. Sì, infatti. C'era un radioamatore, l'ho visto su YouTube che stava facendo dei collegamenti e stava usando proprio l'FT 450. Quant'è che costa nuovo quello? Ma lo sai che non lo so, non so. E c'ha, vabbè, questo ha un paio d'anni, però mi è uscito già qualche anno, non lo so, se costava, mi sembra, 690 euro, una cosa del genere, sulle 700 euro comunque nuovo. Non costa poi tanto per la radio che è. No, non costa tanto, però non mi sembra che abbia preso tanto piede. Però guarda, è una bella radio perché c'ha i numeri belli grandi, l'accordatore automatico, DSP, è una radio che veramente... L'unica cosa è che non c'ha il piede questo qua non c'era, per esempio, come i Kenwood, capite, gli altri. Ehi, ti dico brutto, la buona dritta normale come te la, non ha il piede, te l'immagini. Chissà perché non gliel'hanno fatto. Oh yeah, dicevi di... No, non ne ha proprio, ci avevo già guardato, c'ha i quattro piedini classici. No, non ne ha. E andava bene a te, non ti preoccupare, l'importante è che vada bene in trasmissione, in ricezione, poi del piede, se ne frega. No, ma intanto deve partire, capito? Non è che l'ho preso per uno scambio che devo fare con uno di Napoli, con un radioamatore, e sto facendo uno scambio con un ricevitore che ha lui, che ecco, è più la differenza dei soldi, capito? Questo qua era qua a Sassari, di un radioamatore che non lo usava mai. Aveva messo l'annuncio, poi l'ho contattato e me l'ha portato qua, mi ha detto io l'ho usato poco, se non sapevo neanche come andare la sintonia in 27, in AM, se non lo sblocchi dal menu non fa la sintonia, tu puoi girare tanto voi, capito? Allora ho guardato nel video su YouTube, ho trovato la funzione nel menu che devi disabilitare per far sì che vai con la sintonia continua, capito? Se no mi ha detto boh, non lo so, no, non l'ho usato mai praticamente, ma dico figura. E davanti c'ha l'attacco delle cuffie e sotto l'attacco per il tasto telegrafico. Sì, ho capito. No, è un bel apparato. Ve lo appoggio. Appoggialo lì. Appoggialo. Ok. Io me l'ho ordinato un tasto telegrafico, ma avevo fatto lo xilofono da ogni volume, bello veramente. Brava, hai fatto bene. Ma Giuliana, tu 12 BL, a chi cazzo non provi un PL che fa tuzia, e mi sono arrivato in domenica, dimmi tu consegnano in domenica anche. Boh. Che ci vuoi fare? Ah, io non ci faccio nulla. Adesso vedo se lo trovo qualche 4,50 e me lo prendo. Guarda, questo sta uscendo dal negozio, c'è la scatola, i manuali, l'imballi, tutto originale. E vabbè, ma se lo devi dare. Sì, se non si umilia gli fa niente, no, ma capito, è ormai venduto. No, se lo prende. Kappa. Anda bene Meda. Io c'avevo anche la Delta Loop per i 50, c'avevo in campagna, solo che qua è cosa cazzo di acido, sennò che è un macello, non ne bevo né acido a testa. E io ce l'ho nella ringhiera, me l'ho piazzato nel tubo, mi ti sto mandando le cose, nella ringhiera la Delta Loop, però l'avevo fatta per la 27 e poi invece l'ho trasformata per ascolto in banda HF, l'ho allungata e tutto quanto. E ho capito, io ce l'ho già fatta, c'ho un X300, c'ho la G5RV, ma dove cazzo le piazzo qua? Qua no, non ne puoi piazzarsi, già ve ne so tre sopra di antenne. Ma anch'io sono limitato, purtroppo io ho 10 metri sì, di terrazzo, ma cioè, le antenne non ci stanno, capito? Il casino è quello per me. Poi, perché c'è la verticale che risulta in mezzo, il palo della verticale del tetto, che non è che dietro li puoi mettere di poli, sì, i bimboni, ma per ricevere li puoi mettere, che sennò dà fastidio il palo, poi c'è l'X300, capito? Le antenne della televisione, è un casotto. Non è perché sono qua, c'ho tanta roba da poter mettere. Mi è arrivato di solito. Come? Arrivate di solito. E cosa? Nel telefonino. E aspetta che guardo, ce l'ho anche nel computer WhatsApp io. Capito? No, aspetta, chiamata. Guardo nel computer, faccio prima. Sì, è arrivato il 450. Ho sentito quell'amico nostro. quelle prove che abbiamo fatto stamattina. Ok. È bello come apparecchio quello. Adesso vediamo se mi va bene quella cosa. Vabbè, tu vedrai che l'apparecchio. Sì che quando sarà ti userai di nuovo il tuo. Ne ho due apparecchi. Più c'ho l'omologato che sto usando adesso, però li ho dati a un amico perché qua non posso tenere nulla, che è un casotto, non si sa mai. Vabbè, quando sarà te ne vai durrà, appunto, che non c'è bisogno, sì, cioè se vuoi qualcosa con DSP, allora sì, allora te lo consiglio, certo, capito, perché o se no ti metti un DSP esterno e vai più lo stesso, capito. Anzi, aspetta, mi avevo mandato un video a coso, aspetta, te lo giro anche a te, ti posso vedere la differenza. E allo sgocco, come si funziona? Ti mando quello che ho preso io. E calma. Vai, te ne ho mandati. Il primo che ti ho mandato è quello che ho preso io, l'altro è lo stesso, una colonnina direttamente, però quella costa il doppio e l'altro funziona lo stesso, anzi mi sembra anche più bellino l'altro, esteticamente come funzioni e tutto. C'è una differenza, eh? Con radio vecchie come possono cambiare la musica. E beh, acciamba dal giorno alla notte. E te credo che cambia. Hai visto quello che ho preso io, quello bianco? Quello lì è quello che ho preso io. Bellissimo, anche quello ha delle funzioni, filtri, o io gli. Belle cose sono. Belle cose che oggi ci vogliono, capito? Soprattutto con radio rumorose, eccetera, eccetera, con radio vecchie, senza DSP, capito? Si cambia tutto, ma ci vogliono obbligatoriamente, secondo me, quelle robe lì. Ma giù su video ho visto il 27, cazzo, proprio non si intendeva nulla, su rumori, come ti era acceso, come ti si abbiglia. Certo, immaginati, magari chissà quanti che ci chiamano e non li sentiamo, capito, per questi problemi qua. Lo so, non è quello il discorso, che non li senti, ma molta gente non li senti. Capito? Addirittura con l'antenna vecchia che avevo io, te lo ricordi? Sempre l'URM a 7 la vita. Se tu al manco non arrivi più di 7 non ti senti io. Quelli bassi non ne sentivo uno. Cazzo, mi parla di Rubiele, Regi era, di colore verde, muffa. Si è rotto addirittura la boccola, si è rotta e mi è uscita netta netta. Infatti gli ho cambiato anche il cavo, tutto quanto, e Varì l'ha pigliato. E questa ti sta funzionando bene sempre, sì. Questa è un bijou, anche quelli bassi sento. Se ti sto dicendo che c'avevo sempre QRM7 con guida. Era quando più via le stazionarie a 2 qualcosa mi salivano. Quindi vedi tu com'era l'antenna. Vai in dubbio, mi mandava a bagnomaria la cosa, no? La resistenza che c'era lì. Me la mandava proprio in corpo. Non potevo modulare perché andava a 2,5 quasi di stazionario e saliva. Se pioveva, tranquillo che non potevo modulare. Questo senso bisogna che ne lascendo, adesso è un bel po' su. Questa addirittura, questa l'avevo fatta ancora con l'H155 grigio, ancora l'Ove Loss non era uscito. Pensando ai cantanti peggio. E io a questa qui addirittura gli ho vulcanizzato anche i collegamenti di dentro. Dove si aggiunge il cavo, non quella originale. Vulcanizzato di Burughissia, di uno solo d'acero. Hai fatto bene, a volte però facciamo più danno vulcanizzando, nastrando, perché poi magari secondo cos'è si forma la condensa dentro ed è peggio, capito? Perché non c'ha riciclo di aria. A volte facciamo più danno così, solo che non usai, allora vulcanizzi tutto. E io i collegamenti glieli ho vulcanizzati, perché diceva di vulcanizzarli. La giubiata da come si ridocca, quindi vediamo un po' qua va. Vedo che sta funzionando bene, che c'è una bella ricezione, l'antenna. Anche quelli bassi adesso li sento, prima manco baricattoli. C'avevo sempre il coso Santiago 7, il QRM, quindi quelli bassi che arrivavano sì, non li sentivo. Ma poi infatti questi modelli qua, io lo stesso QRM difficilmente che sale oltre l'1 così, ma difficile, capito? Sono molto silenziosi, io ho anche i ripetitori qua di fronte. Figurati. No, come antenne sono silenziose, perché in pratica è un dipolo, solo che invece di essere messo a V invertita o in orizzontale è verticale, capito? E allora cos'è? Bisogna naturalmente quando le costruisci questi modelli qua devi fare molta attenzione a molti particolari, capito? Molti particolari, bene agghiacciata, però sono così, soprattutto nelle temperature del saldatore. Io vario tre temperature quando costruisco quel tipo di antenne. È per quello che ho il saldatore, capito, regolabile, per quello, quando faccio quelle antenne lì bisogna stare molto attenti, che pare così, ma se scaldi troppo il dielettrico, intanto poi l'analizzato è più utile e ne devi fare tutta a terra. Infatti, cose con i pazzi, beh, adesso mi mancano due cose, forse me le da due pezzi di tubo da 40, devo fare due cariche perché c'è un dipolo qua, però è solo per il 20 e devo farmi due cariche. Il filo. Devo avvolgere un po' di filo e quindi mi servono due pezzi di tubo. Sì, ne ho fatto anch'io, ne ho uno qua per i 40 con alimentazione al centro, però senza bisogno di neanche di ballo, capito? Fatto in elettrico, però è fatto in un certo modo e non c'è bisogno di ballo né di nulla. E io muro ripartito chissi, solo che va, siccome gli avevo piazzato anche la caducola per salirsi di polo, no? Però di subirla, ma le adrugavo, bisogna che ne riccioli a chissu, aggiungo un po' di cavo e così se riesco a sbloccare quella roba lì ce lo posso salire un dipolo, capito? Sono voi invertita roba buona in effetti, che non c'è spazio tu. Infatti, e così lo farò. Allora, vai dentro. A chi non mi vuoi attare un'altra gabicchia, no? Che ti faccia, l'ho detto, ti faccio qualche cosa, poi mi do capagami lui. Ma non si può salire perché? Perché è rotto o perché? A chi non puoi salirsi sul tetto, da dove passi? Facendo un progetto in salire. Cambio rubata, magari. Ma non c'è una botola perché? No, dice Giuseppe, quello che ha preso, quello dell'ultimo piano, che la deve fare questa botola per poter uscire. Però dici che ti faccia la cabicchiuglia, se rompi qualcosa tocca pagare tutto il tetto, oppure se ti vari a giosso, ti voglio vedere, sarà tutto pratico. Vabbè, non mi fido io, no? Balle sono. Aspetta un attimo, Natale. Hola, ok. Ho attaccato l'altro, guarda com'è. Va bene. Allora, potenza siamo a 10, 11 watt. Allora, Mickey, alto, normale, basso. Luca tu sei? E io? Ti stavo chiamando, non hai più ripreso. Ti ho chiamato io poco fa, però non hai risposto. E allora mi sono messo un po' il telefonino. Beh, la radio bassa. Bassa? Fa un passaggio più lungo. Eppure me l'ho toccato dal micchino. Aspetta. Va a avere una brombetta. Perché aspetta, ecco, adesso è alto. perché c'era le tre modalità, questo non c'è la regolazione come le altre radio, capito? Il mic-in, questo è alto, medio e basso. Io ho capito. No, mi sono trombato niente di zanzura, lo so, invece qui di premere il tasto per entrare nel menu, siccome a fianco c'è il tasto dell'accordatore, aggiù ficcia a doghisso. Questo è modalità alta, mic-in. E così vuole, adesso va benissimo la radio 5. Sì, perché non ha giocato, fa connessione, ripeto, lo devo spedire così che sennò vi ho attaccato l'MC60 o il microfono a studio, ma poi c'è l'attacco RG, questo, capito, non c'è l'attacco, non ha giocato, di fa connessione RG, va. RG 45, allora, sa bene cosa va. Infatti. E vabbè, a parte si offende tutti così. Meno male che hanno fatto le spinette più comode, non so se le hai viste le nuove, che c'è la crepatrice anche, c'è le spinette normali, adesso hanno fatto le spinette bucate da avanti, praticamente tu i fili escono da avanti, come escono da avanti i crimpi, invece chi da Maria, mamma mia, ti devi afferrare, stare attento che non vada, andava a toccare uno con l'altro, che non accavallavi, mamma mia, avevo la lente di ingrandimento. Lo so, so. Purtroppo è guys, punto. Ce l'avevo anch'io la crimpatrice e non so che fine ha fatto. Nuova. È diventata mi pare una volta da poi non la giubiauda, o me ne ha in grancida. Come diciamo noi a Sassari. Io l'ho presa su Amazon insieme con le spinette anche. Una scatola era, che poi c'ha, oltre che crimpatrice, fa spellafili, fa tante funzioni, capito? Pesa un trono, pesa. Però con le nuove spinette che hanno fatto adesso, capito, i fili escono, quando pulì i fili, tutti in fila, escono da davanti, sì che non puoi sbagliare, capito? È così che una volta che ti escono tutti i fili da davanti, vedi, è crimpi, non puoi sbagliare, vedi, è su progresso. Più andiamo avanti e meglio è. Che vuoi che ti dica? Ma a seconda mano un 4,50 quanto si può pagare? Se lo trovo a seconda mano magari. Guarda, i prezzi io li ho visti anche a 500 ancora. Varia dai 4 ai 500 addirittura, sì. Ok. Cazzo, io c'avevo l'8,57 e me lo sono venduto. E quello lì c'aveva V e U pure. Così avrei avuto la banda laterale nelle bande alte. Ho preso e me l'ho venduto. Fanguala. Non sapevo cosa va. E anche l'897 è bello, però l'ho avuto un amico, guarda, però mamma mia, meno sotto meno, ve ne poche di cose, bello però, c'aveva anche il latino 897, l'accordatore suo, attaccato nel fianco. E cazzo. Si è venduto. Adesso mi ricordo se 600 o 700, mi ricordo, da uno di un paese qua. Che vuoi che ti dica? Allora, però prima vai tu si andare da Siria, se no non figlio nulla. Ma tu dici di venderti l'altro e prendere 4,50, beh, fai bene, fai benissimo se fai attività. No, me li tengo tutti, se faccio attività, che posso fare attività, me li tengo, non dopo nulla. È che mi devo buscare uno di quelli che hanno anche le bande alte in banda laterale, perché sennò è un macello, c'è solo l'FM e basta. Anche 6 metri tra l'altro. E anche l'857 aveva tutto. Io non ci ho pensato e me l'ho venduto. Accudire. Mi accudire a pompone che costo me. Allora sai. Ciao, ciao Luca. Sì, un attimo, mi sposto. Già va bene. E cosa ti fa che male? Nulla, stavo facendo l'amplificatore che non accendeva più, si è sbarrato in pratica il pulsante. Ho detto, adesso mi tocca domani andare a comprarlo. e piazzarglielo. L'altro giorno ero vicino a casa sua, già lo sai, sì. Sì, Giallisco. Ma lo sapevo che abitava coso lì, fianco a te. Sì. Cava, cava. Dice che c'era un altro che aveva il baracchino, non so, che abitava di fronte a quella persona. Pietro stai parlando tu. Quello che abitava di fronte a te che c'era il portati le PMR. Ascolta. Ma dove? Dove ascolto? Su WhatsApp. Hai capito? Ma perché sono moduli tu, io non lo so. Ma ti ha sentito. A che lo buco? Allora, cosa ridda? Non ho potuto ascoltare. Cioè? Dove dovevo ascoltare? Su WhatsApp. No. C'era qua, non ho sentito nulla. Ciu. Allora, carità perca. Ma che ci che me ne vado a bere? Beviti una bevere, prendi. Ciu. Dimmi tutto. Agito, ma come prisciù? No, ho attivato, in questa radio ho attivato il parlascolta, perché c'è anche il parlascolta. Senti, come fischia si altro? Bello, c'è anche il parlascolta. Tutto c'è con la gente. Con la ragazza che c'è il radio. E c'è tutto. C'è anche la signorina che mi dice la frequenza, c'è l'accordatore. Sì, è piccola, però l'hanno fatta veramente, l'hanno studiata bene, dai, funziona bene. Sì, ricordo cos'è, SDR mi pare si chiama, come vogliamo. Tu dimmi che stai uscendo. Hanno un sacco di frequenze e c'hanno tutto. Sì, anche quel RP, hai visto che è carino, piccolino, ti riporti appresso, parli dappertutto. E anche quel RP, sì, esatto. Già li ho visti. Fanno un sacco di frequenze anche. Bello trovare un apparecchio militare invece. Una volta li avevo visti per sbaglio, costava intorno agli 800 euro, ma faceva tutto. C'aveva la batteria, l'antenna, tutto. Faceva militare, partiva da zero a un giga e passa. Molto, molto, molto, no, abbastanza. a livello di prima, usando il mixer? No, è troppo basso. Se non me lo dici. Guarda, se no tocchiamo gli altri, non so come, capito? No, lascialo così, già va bene. Faccio così, papparoggialo. Via. Cosa è e cosa non è? Ai vabbè, però ripeto, la prova è già fatta, ce l'hai tutti fatti. Buga di tutto, buono 60 e boh. E che ballacche? Allora, sai, tutta la roba a mettere i piedi. Quella là deve funzionare con l'MC60, non c'è niente da fare. Anche se gli altri sono belli, insomma, funzionano bene, però io preferisco sempre il 60. Per comodità, per bellezza, per tutto, capito? Allora, perché tu ne, cioè, fai una questione di abitudine, te ne possono dare mille, belli, che escono meglio, che escono male, però quando ti fissi su quello, giustamente non ti muove nessuno. A me piace fare queste prove invece, capito? Ma non per uscire meglio o peggio, perché mi piace qualche prova, capito? Roggero. Io sono abituato così, io col 920 c'ho il microfono Yaesu, col K1 c'ho l'MC60, col K2 c'ho l'MC60, con l'820 della ICOM c'ho l'SM20 della ICOM, capito? Già mi gira le palle questo tunnel P3 del Galaxy, mezzo a microfoni professionali, figura di due, non so c'è Gubignolo. Perché poi giustamente hai tutto in ordine. No, ma io perché sto sempre facendo, perché, capito? Per farti, infatti oggi ti favore il vostro intendere un pedale, ma Claudio, questo è il pedale, col 50. Capito? Com'è così? Tutto a minimo. Minimo, poi ci sono proprio i bassi, i mini. Oh, ciccola. Tieni conto, c'è la radio anche che spinge l'ura, non è che brucia l'arancio, questa radio è una bestiolina, in certe poco spinge. Sto usando il 50, ma spinge. Se tu metti il 50 diretto a quella radio, il 50 diretto, processore inserito, e sollevi il mic gain a 6-7, so spinge lo stesso a me, perché l'ho fatta io la prova. Sì, vabbè, perché lavora il processore, il mic gain, ma se mi cacchi un processore è una bucaria, capito? Non spinge molto. Io non so, queste prove le abbiamo già fatte, però ti ripeto, le prove le hai fatte, io ti ho divulgato tutto, ma avrei messo il 60, e basta. E i discorsi sono fatti, K, qua è arrivata la truppa, adesso mi devo staccare e decidere cosa dobbiamo preparare per cena. Dai, ci sentiamo dopo, è tutto acceso qua comunque. Eia, l'hai visto il video? No, adesso vado a guardarlo. Vedi, anche chi non c'ha spazio, mette questo, il cirillo, anche attaccato a un baracchino, per dire, con un 50, raddoppia e triplica addirittura la modulazione, capito? Tutte cose già provate. Ah, beh, è chiaro. No, io sto andando col superstar l'MB+5, non va bene? Veglia. Sì. E tutti vanno bene. Bisogna sempre farli andare. Qua. E questo è il problema che ha dato Fabrizio. Ehi, 6 watt, diciamo, durati 8, dai. K. Già va bene, così l'ho attaccato io, l'ho lasciato attaccato, e giusto per farlo girare un po' perché era fermo, ce l'aveva in garage, va benissimo alla grande. Finalmente ti sei fatto aggiustare lo smitter, ho visto. tornello. Bravo, hai fatto bene. Sì, ci ha messo pochissimo l'amico mio, non c'è problema. Si era starato un trimerino, che non teneva più, gliel'ha sostituito, perfetto. Adesso infatti tu c'è lo stesso segnale del K, preciso, tarato, una sonda, una granada. Perfetto adesso non ce la fare veramente niente a questo gioiellino del garage. È una granada. Mi stavo riguardando il video che ti ha mandato appunto l'amico tuo quando te lo stava facendo. Beh, bravo. E beh, poi strumenti appositi, giustamente. Caspita, hanno venuto da lì va. Tanto non mettere lo smitter con la sonda, che sia un baracchino, che sia un HF, è terra dura, sonda, non venuta da va. È perfetto. 9:10 arrivi col K, 9:10 arrivi qua. Perfetto. Infatti adesso come ho stato al garage. E sì, 9:10. Perfetto. Ottimo. No, ma non l'aveva già detto l'altra volta, solo che no. Non è più là, è stato attaccato, ma invece te l'ho detto, eravamo assieme. Aveva fatto 10 minuti, ci ha messo tutto il trimerino, ha messo nuovo, una resistenza variabile che regola gli strumenti, tutti e due, evidentemente era andato a farsi fare in culo, ma l'aveva messo nuovo. Oh, io sono sempre con quello, aspetta, a quel pedale ti metto l'altro, dai. Che pure mi sposto, andiamo a vedere cosa dobbiamo preparare a Magnano, perché la truppa è rientrata adesso che erano a Valghero, vediamo cosa, se siamo riusciti a prendere qualcosa, se prepariamo, se si mangia stanotte, non si mangia. Eia, capagaba. Tutta una caguba. No, ma è questione di abitudine, capito? È questione di abitudine. Allora, spegniamo il pedalation, elegantation. Oh, io qua nella radio poi non tocco mai niente. Le impostazioni della radio le lascio sempre uguali, capito? Metti a 3. Cambio solo microfoni, mix, pedale, non c'è un buaccio. No, la radio è perfetta, c'è una modulazione fantastica. 60 da paura, bella, corposa, forte, chiara, molto bella, molto molto bella. E un altro letto, c'è la radio che spinge, sono maledetti, 480 maledetti, 9:440 li tengiamo. E io perché ho fatto fuori 440, mi sono tenuto 430, perché non signora radio. Però chi ce l'ha se la tiene, se non se la mette in bagaglio, giustamente, perché il prezzo del 430 è 400 euro, meno brava. Non c'è niente da fare, è meccanico, dà meno problemi, è più affidabile del 440, è un muletto, come te lo 140, 140 è eterno, cazzo. Mamma mia. Non ho mai portato a riparare uno, cazzo, nulla, mai fatto una riparazione a 140, mai. E così 430 sono dei muletti. Sì, hanno magari falsi contatti, delle stronzate, però non ti crea problemi di VCO come il 440. Se mi ricordo, io 2 anni ce l'avevo comprato nuovo, la Marinottata. Comprato nuovo. 2.700.000 lire, la Mario Nottari, via le mamiche, 2 anni per la vita, una mazzata, una razzindillo, tutto puntini, chiamato Mario, guarda quanto era figlio di bagascia, l'ho chiamato, ho detto, ma questa radio l'ho accesa, cioè i puntini, il frequenzimetro, io non è che ero molto preparato, non è né che, da allora, va, ci ho goduto i difetti, tutti i puntini c'ha, no, porta, non glielo so io che cosa è, e tu c'è via Ia che era nato di fittuccio. Avanti, chi voleva entrare? Oggi, non c'è una modulazione, va vedete, già vi potete mettere, sì. No, forse hanno detto, aspetta, della serie magari di che volevano entrare dopo che finivi di parlare, boh. Avanti, chi è? Avanti. Sì, non entra. Va bene, dai, io mi allontano, ci sentiamo dopo, ok? Tanto tu che ne dite, sempre la giurità ministra. capito, ne giro per buona volta, all'inizio ce ne andiamo dove eravamo prima, ciao. Ehi, allora mandami un messaggio. E spengo intanto, cosa sono buono, non venisci uno, mi ti c'è fuori. Sì, anch'io, vado a fare una sigaretta, ciao ciao, non sto cazzo.